Il contrasto di Cielo d'Alcamo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Personaggi ed interpreti. Amante, letto da Pierre. Madonna, letto da Marilena. Rosa fresca o lentissima, capar in ver la state. Le donne ti disiano, pulzelle, maritate, trami desta focora, se teste a volontate. Per te non hai avvento, notte e dia, pensando pur di voi, Madonna mia. Se di meve trabagliti, follia lo ti fa fare. L'omar potresti a rompere, avanti al semenare, la bere d'esto secolo tutto quanto a sembrare. Avere me non poteria sto monno, avanti li cavelli ma ritonno. Se li cavelli artoniti avanti foss'io morto, cai sì mi perdera lo solaccio e lo diporto, quando ci passo e veioti, rosa fresca dell'orto, buono conforto donimi tutt'ore, poniamo che s'aiunga il nostro amore. Che il nostro amore aiungasi, non voglio ma talenti. Se ci ti trova paremo con gli altri miei parenti, guarda, non t'argolgano questi forti correnti. Come ti seppe buona la venuta, consiglio che ti guardi alla partuta. Se in tuoi parenti trovami, e che mi possono fare? Una difensa metoci di 2000 agostari. Non mi toccara, padre, tu, per quanto avere ambari. Viva l'imperatore, grazie a Deo. Intendi, bella, quello ti dico eo. Tu me non lasci vivere, né sera né maitino. Donna mi son di Perperi, d'Auro Massamotino. Se tanto aver donassemi quanto ha lo Saladino, e per aiunta quant'ha lo Soldano, toccare me non poteri alla mano. Molte sono le femmine c'hanno dura la testa, e l'omo con parabole l'ammina e ammonesta, tanto intorno per casala finché l'ha in sua podesta. Femmina d'omo non si può tenere, guardati bella, pur de ripentere. Che io me ne pentesse, davanti fossi uccisa, ca nulla buona femmina per me fosse ripresa. Er sera ci passasti, correnno alla distesa, acquistiti riposo, canzoneri, le tue parole a me non piaccion gueri. Doimè, quan son le schiantora che m'amise allo core, e solo pur pensanno maladia quando vo fore. Femmina d'esto secolo tanto non amai ancore, quant'amo teve, rosa invidiata, ben credo che mi fosti destinata. Se destinata fosseti, caderia delle altezze, che male messe forano in teve mie bellezze, se tutto addivenissemi, tagliarami le trezze. E consore marenno a una magione, avanti che martochi in la persone. Se tu consore renneti, donna col viso cleri, allo mostero venoci e renommi confleri, per tanta prova vencerti faralo volentieri. Con te costao la sera e lo maitino, besognè ch'io ti tenga al meo dimino. Boimè, tapina misera, com'ha o reo destinato, Gesù Cristo l'Altissimo del toto mi hai irato, concepistimi a abbattere in omo blestemiato. Cerca la terra che ste gran assai, più bella donna di me troverai. Cercataio, Calabra, Toscana e Lombardia, Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa, Soria, Lamagna e Babilonia, tuta barberia. Donna non trovai tanto cortese, per dea sovrana di meve te prese. Poi tanto trabagliasti, facioti meo pregheri, che tu vadi a domanimi a mia mare e a Monperi. Se dare mi ti degnano, menami allo mosteri e sposami davanti della gente, e poi farò le tue comandamente. Di ciò che dici, Vitama, né niente non ti vale, cade le tue parabole fattono ponti e scale. Penne pensasti mettere, sonti cadute l'ale, e dato taglio la volta sotana. Dunque, se poi, teniti villana. E in paura non mettermi di nullo manganiello, istomi in sta gloria desto forte castiello. Prezzo le tue parabole, meno che d'un zitello. Se tu non levi e vatine di quaci, se tu ci fosse morto, ben mi chiaci. Dunque vorresti, Vitama, ca per te fosse strutto? Se morto essere deboci od intagliato tutto, di quaci non mi mosera, se non hai dello frutto, lo quale stao nello tuo giardino, disiolo la sera e lo matino. Di quel frutto non abbero conti né cavalieri, molto lo disiano marchesi e giustizieri. Avere non ne pottero, gironde molto feri. Intendi bene ciò che vuole dire. Meneste di mill'onze lo tuo bere. Molti son li garofani, ma non che sal mandai. Bella, non dispregiaremi, s'avanti non m'assai. Se vento è in prode girasi e giungeti alle prai, a rimembrare t'ha este parole. Cadentra sta animella, assai mi dole. Ma cara, se doletesi che cadesse angosciato, la gente ci corre solo da traverso e dal lato. Tutta meve dicessono, a cori e sto malnato, non ti degnara porgere la mano, per quanto avere ha al papa e lo soldano. Deo lo volesse, Vitama, ca te fos morto in casa. L'arma n'anderia consola, ca di e notte pantasa. La iente ti chiamarono, oi periura malvascia, ca morto l'uomo in casata, traita, senza ogni colpo, levimi la vita. Se tu non levi, e vatine con la maledizione, li frati miei ti trovano dentro chissà magione. Beh, lo mi sofero perdici le persone, ca meve se venuto a sormonare, parente e amico non t'ave aiutare. A meve non aitano amici né parenti, i strani mi son, carama, enfra esta bona iente. Or fa un anno, Vitama, che entrata mi sen mente, di canno ti vististi non t'aiuto, bella, da quello giorno son feruto. Ahi, tanto namorastiti, Iuda lo traito, come se fosse porpore, iscarlato o sciamito. Sa l'Evangele iurimi che mi sia marito, avere non me potera esto monno, avanti in mare itomi al profondo. Se tu nel mare gititi, donna cortese fina, diretomi ti misera per tutta la marina, poi canegaseti, trobareti all'arena, solo per questa cosa d'impetrare, con te comaio aggiungere a peccare. Segnomi in padre e in figlio ed in santo Matteo, so che non sei tu retico, figlio di Giudeo, e cotale parabole non udì dire anch'io. Mortasi la femmina all'on tutto, perderci lo saboro e lo distotto. Bene lo saccio, carama, altro non posso fare. Se quisso non accomplimi, lasso nello cantare. fallo, mia donna, plazzati, che bene lo puoi fare. Ancora tu non m'ami? Molto t'amo, sì m'hai preso come il pesce all'amo. Sazzo che m'ami, amoti di core paladino. Levati, Suso, e vatene, tornaci allo mattino. Se ciò che dico facemi, di buon cor t'amo e fino. Quisso ti imprometto io senza faglia, te la mia fede che m'hai in tua baglia. Perciò che dici, cara, ma né iente non mi muovo. Inanti prenni e scannami, togli sto cortel novo. E sto fatto far potesi innanzi scalfio nuovo. Arcomplimi talento, amica bella, che l'arma colo core mi s'infella. Ben sazzo, l'arma doleti como caversura, e sto fatto non potesi per null'altra misura, se non all'Evangele che, mo ti dico, iura, avere me non puoi in tua podesta. Inanti prenni e tagliami la testa. L'Evangele, carama, ch'io le porto in seno, allo mostero presile, non ci era lo patrino. Sovresto libro iuroti, mai non ti vegno meno. Arcomplimi talento in caritate, che l'arma me ne sta in sutilitate. Meo sire, poi iurastimi, e ho tutta quanta in cenno. Sono alla tua presenza, da voi non mi difenno. Se ho min espresso aoti, merzè a voi m'arenno. Allo letto ne cimo alla bonora, che chissà cosa ne data in ventura. Fine de Il contrasto di Cielo d'Alcamo.